Attenzione Marino, attenzione Gian Maria, hola, e chi è? Boia. Ah, te sei che uia, cosa ti duri oggi? Ho detto il boia, non l'uia. Buonasera comunque. Buonasera anche a lei dottore. Sì, dottore De Lugosi. Anda bene, cosa c'è venuto? Nulla. Niente, niente. Stavo solo ascoltando, basta. Ho lasciato il baracchino acceso. Per farlo scaldare. Ah, ci bisogna fare le caldine. Sì, vabbè, se lo lasci fermo. Già lo sai, a volte crea problemi l'apparato. Non ho dato tempo. Grande e quindi bisogna farlo funzionare, quello sì, se no riesci a rivederci pure. E gli hanno suonato in scatola, il quadribanda ce l'ho messo in scatola, tanto cosa ho già a fare, c'ho questo qua, poi c'ho l'altro, quindi a voglia di andare così. Va bene così, va bene. Ma sta usando un misure, boh. Infatti. Vabbè, a parte il PMR che ogni tanto gli ha lungo. Dopo t'appresso, se c'è qualcuno già gli rispondo, se non c'è nessuno pazienza. Ui, cosa te lo porti a fare? Sì, parlerò con quei cosi. Piacere gente dalla parte delle cose, di essere vecchio, tutto pieno di ragazzi e ragazze che parlano. Ehi, un che si è accoppiato. Allora, c'erano un sacco di persone lì, lo usano per parlare tra di loro. Ehi, molte volte già li sento, ma uno, due, là che non si intende. Vabbè, oggi non sento nessuno, ma di solito lunedì è pieno, da lunedì fino a sabato. Sento tutti i negozi che ci sono a Pedranieta, intendo. Ehi, ma non sono in PMR. Sì, sono in PMR, sul canale 1 solo. Invece sul 3 c'è la E.ON, capito? Quando buttano il carbone, la misura, poi ci sono quei i tecnici, ci sono i cosi, un po' di gente c'è, figurati, c'è quello furbacchione anche delle altre scuole. Ma dici che sei buono in moto, ma fa cosa, li vuoi vedere? Se vuoi vedere di niente, di cosa? Vabbè, in moto non ne ho visto ancora, fu con bel gente, ce l'ho visto che c'era... è pieno sassi di questi portati lì, se ne escono in macchina la mattina, capito, è andato a scuola e fanno il tragitto che deve fare in pratica il quello della come si chiama, quindi dice passa qua, passa là, passa giù, parcheggia, hai capito, come sono furbi. Come che nessuno li ascolti, però non sanno che anche lassù ascoltano. È appunto per quello. Prima che ho sentito che usava la De Monti, dopodiché erano i puttati in culo e adesso vabbè, se va, e non l'ho più sentita, se c'è un'altra autoscuola che fa la stessa cosa. Hai capito? Il giorno prima li fa vedere uno con portate davanti, l'altro dietro, e gli fa vedere il percorso che deve fare quello, l'indomani per fare l'esame. E lo sai che non si possono usare quelli lì per fare tutta questa cosa? Ma li acciappano i giocavoli loro? Non ho saputo cosa... già ci sono, fanno pratica il percorso per fare l'esame d'attore, vedi? La di prima. Ma non paga, hai compreso, ma non paga la tassa, è così, che non ne pagano né manco. Né. E noi siamo costretti a pagarla. Esatto, sì. E io che non si bagano in nulla, ero drappano. Sì, anche nei cantieri ce n'è. Vabbè, i cantieri lo usano quelli piccolini, quelli da 10 mm. Sì. L'altra volta li ho sentiti, qualcosa li ho sentiti, e c'erano arrabbiati che era uno che era fuori dal portante, non riesce a entrare. E si sono arrabbiati, si sono. Sì, sì, io quindi... Allora che cose c'hanno, che come si chiamano? I geometri addirittura. Sulla fase di misurazione in estrale. Tu vai, tac, una volta usavamo la 27, adesso invece anche lo sono attrezzati. Ma io dico cazzo, perché devi usare le frequenze delle cose che poi ti disturbano e tutto quanto. Allora, va chi vuole entrare, avanti. Ho sentito qualcuno che stavo facendo tutto la scarica. Anche io l'ho sentito. Oh, arrivi a basso basso a me. Ehi, Uia, che è da un po' di giorni che non sento la Gian Maria. Se me l'ho sentito ieri io, se non mi ricordo male. O io avanti ieri. Boh. Non so cosa gli sia successo. No, mi ha detto io, ho sentito, mi ha detto dice... E tanto lei pensavo fare una cosa, se già rientra dopo, ma detto vabbè, già solo con l'ascolto. Poi non l'ho più sentito. Oh, a meno che non è fuori oggi, o è in campagna, boh, o da qualcuno, o dalla figlia, boh. Probabile, si ritardo. Sì, dove mettere il bacchiglio? Vabbè. Aspetta che prendo la pallina al cane che sta... Si sta mettendo il muso sotto il sentimino, la zitta. Sembra che sono che si incatti. Quando poi scoppia a toglierlo, aspetta. Tagliela, almeno così si yuga. Ehi, hai andato adesso, è andato in camera da letto a giocare sul palletto adesso. Di solito me la porta a me la mattina alle 9, me la metto in testa e poi si mette a bagliare. E vuol dire che te ne vuoi scegliare direttamente. Ehi, per quello è fatto, l'ho fatto. A svegliarmi. E ti dice, beh, non mi pare a giosso. Ieri l'ho portato, oggi non ho giocato. Poi penso sono uscito, cazzo, era... No, per lei sono rimasto mal di collo. E coso? E dove la colazione? La fa con me che sono uscito ieri sera. Se fai come faccio io porto 4 volte al giorno, quando fa una camminata da mamma e poi rientro. Sì, ma quello è un casino, quando esci devi, a seconda dell'orario è pieno di cani, capito? Quindi devi stare o da una parte o dall'altra, e questo quando vede i cani si incazza. Ah, va bene, ma già rimane il gaimo. Se la baglia, secondo che la baglia, si può abbaggiare pure quello. E se beh, non ti danno una baglia. Poi continua a camminare. No, questo è una cosa allucinante. Il giorno che c'era un pieno di altri colpi qua nella piazzetta di Carbonazzi. Era dubito dei cani, solo lui sentiva abbagliare, solo il mio. Io me ne sto andando per questo, ho detto, sta facendo un casino questo cane, se no mi chiedo qualche ciabatta. A chi? Ma festa c'era perché? Che festa c'era? C'era pieno di altri colpi, c'era, e quindi c'era tutti i cani che vedano, solo lui sentiva abbagliare, vicino al palco. Certo. Poi si voleva fare intendi al muro. Giulia. Aspetta, oggi non può entrare nessuno, eh. Sì, c'è entrerà qualcuno. Si ha voglia. Ah, che susi. Se n'ha negana, vero? Appunto quello, se ha segnato voglia. Mi sa che ho niente una gara a entrare, non si è andato da nessun luogo. No, c'è questo cavolo di maestrale stamattina, sto vedendo che non mi sono, era male, mal di collo, figurati, non sono neanche uscito, ma stanotte mi piglio la bustina, poi giorno di mattina sono a posto, mi ha preso al collo, dietro la schiena, al petto. Certo, oggi è debole, sì. Dovresti metterti gli anticorpi. Sì, gli anticorpi, iaia. Sono stato pregato a me per farmi la passeggiata ieri. Ho avuto un paio di lire al circo. No, ma con pagate me le hanno regalate. E poi sono diventato in tram, ho preso l'ultimo alle 10:15. Quindi aspettando il tram, l'intolleranza, figurati lì. L'aria che passa. Vabbè, il vostro stiamo così sfogato un pochino. E a casa cosa faccio? Mi annoio. Devo stare sempre avanti e indietro. Ma giura, poi dico la mia televisione sta sbagliata, non mi va. Preferisco farmi una passeggiata a piedi. Tanto pesca anche in mie gambe, può passare un paio d'ore e basta. E io stesso, io sono uscito alle 5 con il cane, ho provato giù, ho fatto un giro manno e poi ci vuoi rientrare piano piano. Ehi, c'è stata a casa, non ci fai nulla, ma non c'è più, una volta si stava dalle 2 del mattino a baracchino, facevamo l'ora così, adesso sono in QRMC, mi stasera sono... Verso le 5 c'è la preparazione tedesca e basta. Da un po' di giorni che non si sente nulla, niente del coso, propagazione, nulla. Quando è caduto la mano, intendi, hai vedo, nulla da va. Ma caro computer, mi, non è coso, nulla. 00 brucio. Non c'è niente. Non c'è propagazione, non nulla. Prima era solo in alta frequenza, ma ormai giocare lì, mettermi l'altapparato e ascoltare le frequenze di cura. Di arrivare a 40 metri, sono in Puglia. E abbassa questo a 27. Ah, se nel computer ho messo anche ad ascoltare i radioattori, scusi, nulla che nulla. Io vuol dire che anche loro stanno stufando, ormai la maggior parte della gente usa il computer per mettere, per andare a conoscere le persone, a capire, sui siti di incontro, altro che baracchino, almeno ti vedi di persona. Ma ho fatto altro, è per cambiare anche io, dopo ti si va di io ci manne e dice vattene. A te cominci a lagrima. E quello che è vero, ti rovina gli occhi il computer, anche i telefoni d'altronde, è la stessa cosa. A me l'ha rovinato più che altro i circuiti stampati, lavorando in laboratorio. Dalle 4 ore la mattina e 4 ore la sera attaccato agli stampati con la lampada, mi ha raccarpato gli occhi a me. È come andare a coso in montagna, c'è la neve, ti guardi la neve senza gli occhiali, tutti i tipi. Quello è brutto, quello è brutto, quello bisogna avere gli occhiali scuri. E di fatti, vabbè, io già uso la lente adesso, ma non c'è bisogno di usare la lente, adesso ci vuole la lente per forza, se no non ci vedo un accidente, arrivato a 50 anni la vista si abbassa. Ma ci siamo andati da poco, io mi raggiungo già andati, penso un po', fino da lontano non vedevo quasi nulla, andavo di giro, che cosa vedevo doppio, vedevo. Esatto, sì. A me mi fa così, mi fa. Anche col telefonino, normalmente mi ha fatto gli occhiali per leggere. Sono vedo doppio, riesco a rivermare anche a firmarmi, lo sai. Devo ascoltarmi quando devo leggere i fogli, infatti ho fatto sempre gli occhiali per leggere appresso. Ma cosa ci vuoi fare? Dobbiamo così, quando arrivi da voi 50 anni che comincia a arrivare tutto quanto. Finché non faranno, come si chiama, qualche cosa, la costruzione, penso che la faranno, non so, per la vista, dopo 50 anni ha migliorato, magari, niente di strano. cose, occhiali, lenti e blu. Sì, certo. La lente, se ci ti rimetti qui togliete la tele carne di chiarellate, te la mangi, cazzo. E io manco vedere 30 litri come si vede doppio. Io dico la pezza la lente così, in mezzo a cappelli. Esagerato, già rimangono ferme. E una voce, ma già rimane nei fermi. La cola ci vuole, cazzo. Potevano fare una lente unica, te la lasci e basta. Al posto di stare sempre cambia, cazzo. Io. Adesso chi può si fa tra il coso, se fa l'operazione viene messo a posto. Beh, adesso già stanno migliorando per la vista sulle cose, ma male. Adesso c'è il laser, non c'è bisogno di operare un cazzo. Prima ti dovevi operare, adesso invece con il laser fanno subito. Infatti, fanno subito sì e dopo di un anno vi vede benissimo, vi vede. Stanno migliorando le cose piano piano, insomma. Magari stanno tappando gli occhi perché c'è problemi, adesso i ciechi li metteranno a vista, vedrai. Li metteranno anche i chip dentro, con la telecamera, e diventa l'occhio più unico. Questo ancora è lontano, qualcosa lì è ancora lontano. Io non ne sappiamo, magari c'è già e non ne sappiamo niente. Può darci pure, non sappiamo, no. Boh, c'è anche non arrivi a che cosa in Italia, noi non ne sappiamo. E andiamo sulla luna lì, nella parte scura che c'è, avrei qualche ribello lì, nascosto. Sono andate, sono che ci vanno i cinesi lì, vedrai la scena. Sì, hai visto, è un cinese che passa, ma prima a vedere, a fare un giro. E a quanto sembra c'è una base nella parte oscura della luna, ossia. Non si sa chi l'abbia fatta, ma già c'è. Ah, boh, no, mi dicono, non so come dai. Hai visto quanto gli hanno preso in soldi a questo qua, quanti milioni? Hai peso per salire su alla luna 5 giorni? Sì, quello già ne ha soldi. Fra poco faranno i voli, o paghi e ti fanno una bella passeggiata fuori. Ma la vuoi che ti dica? Piano a piano? Come si vede, dimmi la finale, senz'altro che faranno prima. Dicono tutti con le macchine e loro escono in giro, lo prendono, si stufano, le abbandonano e gliele tocca. Che andiamo bene, andiamo. Avevi visto le macchine tutte ricoperte d'oro, anche il motore addirittura, non solo l'altro. Fino alle robe avrei a passare in via Roma per una giornata sola, vedrai. Gli avvocati ti seguono, dove partiti, Marco Acciaffi. Vabbè, vedi se sono dei che non ne ha fatti nulla. E là, non toccava nulla, nessuno, solo gli è tagliato la testa. E tutta vernice, che vale, no? È coso, è tutta vernice. Di che beatore adesso che si è perduto il iaio, chissà che non gli è tagliato la testa qualche giorno, perché lì c'è un'usanza musulmana, capito? Ui. Quello ha fatto i soldi senza fare nulla, né studiare né nulla, non ha mai studiato in vita sua quello. C'è chi può e c'è chi no. E l'ha studiata bene, l'ha studiata, vive in barca, cosa ne ha fatti? La divorzia è in barca, quindi non paga tasse, né in Italia né in nessun altro posto, è sempre in giro, senza fissa di volo, in pratica, quindi non gliene fate nulla. Andava così, boh. Beh, dai, dove furbo? Aspettate, è arrivato un messaggio al telefono. aspettando, ti faccio la chiamata a Bacchisio. Bacchisio, ci sei? Aspetti, faccio sentire questa cosa. Solo Belli Gabelli può mandare, mi dico, aspetta. Ciao, erano Egitto, sono state le 7:15 anche quando ho chiamato. No, anche prima era. Prima fossero 6:30, 6:20, 6:30. Perché poi mi sapevo l'Antonino e sono ripartito da lì. Oh, e andare andare. Ancora vivo, eh. Ehi, ehi, ah, ma papà non mi muore mai. Ehi, che aspetta. Sempre lì sta andando, no? Sempre lì, eh. Stavo raccogliendo luce stasera. Oh, ehi, ha fatto bene, tanto. Sono uno svago per lui, quello lì. No, in quel terreno devo ricomprare il tubo. Ha portato un secchio di noci, ha fatto da quegli alberi, ognuno, adesso mi dice, no, il bungaruso l'ha asciuttato, in tasca da chi mi passava dal vicino bisogno, si è butta. E questo è vero, e andiamo, e andiamo, poi la macchina così, si ribassa la lista, si ribassa. Infatti, infatti, avanti ancora, e se ho cosa, ho sentito, il professore di campagna, non si è fatto sentire. Chi è il professore di campagna? Chi è il professore di campagna? Non lo sai chi è, quello che scoppa sempre. Sì, boh. Il Giovanni no, non può essere. Non può essere, non può essere. Piccolino, un po' robusto. È un po' robusto. Ehi, vieni al tuo dottore. Marino, ti sta dicendo. Ah, Marino, non ho sentito per niente ancora. Oh. Sarà magari facendo cosa in campagna, senz'altro, lì. O sistemando cancellate, cosa ne so. Vecchi non ce ne sono da raccogliere, perché ormai non è più il tempo. Se no sta facendo qualcosa di buono sulla graticola. Che diciamo stia facendo qualche cena, qualche pranzo in graticola, lì dove lui già si può fare. Qua nei condomini è un casino, la verità sono all'ultimo piano quindi non mi gira il male nessuno, però se non fosse abitato, se avessi abitato al primo sarebbe stata una cosa di da non proprio non fare, perché il fumo già lo sai, non fastidio a tutti, a meno che non si inviti invece il fumo non le dà fastidio. Il fumo gli mette negli occhi alla gente. Ma tu ce la puoi fare il pocherello lì all'ultimo piano, non ti rompe le palle nessuno. E qui non l'ho sempre fatto io l'estate. Mettevo la graticola fuori, mettevo la cucina di bistecche, salsiccione, quello che, però non stavi a sporcare dentro casa, e anche le sardine. A me la sardine se le fai dentro casa è guai, e le fuggi dall'odore dopo. Sono buone da mangiare, ma poi ti rimane l'odore dentro casa. Se invece se le fai fuori, è una cosa più, sì, più tranquillo. Ehi, infatti le fai dentro casa. Ora le passo sul letto. Ah, questo! Sì, adesso chi non vi? Ho sentito che avevi rilanciato a me, anda, ve, anda. Boh, e tu che gli hai fatto oggi, signor Bacchi? Ah, oggi ho innaffiato. Oggi ho innaffiato perché le piante stavano aspettando l'acqua, gli ho dato. Capito? E poi ho tagliato un po' di erba stamattina, perché mi sta seguendo l'erba, là. È più veloce di me. Infatti, è fatto. Sì, domani altro po' e iniziamo la settimana. Piano piano, senza fretta. Meglio così. Ah, ma così è fatto pulizia e è innaffiato. Sì, è innaffiato, adesso da bruciare. Sono un macello di roba da bruciare. Stiamo aspettando che arrivi il tempo da bruciare e tu gli hai fatto un fogarone. Vabbè, di là invece non ne siamo avuti. Ma certo? Nella festa. Sono andato l'altro giorno, non te l'ho detto. Era chiuso, e l'ho messo come tornato. Vuol dire, no, si sono organizzati. Stavo facendo l'acquisto, dunque sono in giro. Se mi dico ricordo ce l'ho domani sera, a vedere un po' come siamo messi, a vedere se ci sono i fasi, non i fasi, se ci dobbiamo andare o non ci dobbiamo andare. Oh, vediamo un po'. Io voglio il compleanno di Manny Buddy, di Sari, c'è il 7. Non lo so quando è, no? Se è il 7, se è il 5, se è il 2, non lo so quando. Ehi mio, è Rosetto, era il 14. Se non è la prima domenica, sarà la seconda domenica, non lo so. Ah, buh! È una nell'altra che viaggio una Rosetti e l'altra me ne butti il 14. A me pare sia il corso di Marbagalone, ma non venire a travagliare. Andiamo e andiamo. A te che tu sembra un po' me. A me sembra sia così. E c'è il salto, sarà così, sarà. Ci fa impegnato. Perché non ne ha voglia. Non ha voglia di camminare, perché c'è da camminare, no? Non ha voglia lui, dice che non lo faccio qua. Perché lui piace anche il tram, già. Prendi il tram dove che è meglio. Ma guarda, io cammino ogni giorno, mi faccio 4 camminate alla vita. Quindi mi vengo in forma. Beh, se la forma la vuoi, te la faccio io. Se porto la cosa, da Antonio Pigna, te la faccio fare la forma. Ho detto che mi tengo in forma, no a voi, ma mi tengo in forma io, Caminelli. Se non sei in forma ti faccio fare la forma da coso, da Antonio Pigna, oppure da coso, da Diana, è quello che vuoi tu, basta che sia in forma, non va bene Antonio. Allora, se non si vuole mettere in forma, o si informa lui o lo facciamo informare bene. Ehi, andate voi che si informa voi. Se deve informare voi, Vincivi, se devo fare per voi direttamente. Ah, beh, sabato, se vai da Antonio Pigna ti metti in forno, anche in forno, e ti informa. E certo, si può fare nulla con voi, no? Dai, dai, andiamo bene, andiamo. Andate. Sì, anda male, anda tanto dov'è. Va male, va male. E se la figano stasera, non si è sentito, ho già un fagiolino attendendo. E io sono macchina di mari. Ah, boh, non lo so, non è macchina di gallucosia. Non ne so dove sia, boh. La CEO è dalla pigliura, boh. È andata a farsi un giro lontano. A me mi va essendo da cucumetto. Ehi, ma va ancora non è uscito. È già uscito, a buono, non sta vedendo la Carassi. Ah, boh, gli amici che conosco io, li direi ancora non è uscito gli andamieti. Forse no. No, anche uno, no, il tortaiolo è uscito. Il tortaiolo normale è quello di Mola. Lì si viene a pigliare a fare dei piedi a buono. Oh, ma hai detto, come ti fate un fuoco d'eva a caso? Come stai uscito? Vabbè, Antonio, tu non ci vai a funghi. Aspetta che c'è un tele che sta bagliando 2 minuti. Sbattilo a terra con la baglia. Boh. No. Quindi no, non sai nulla, quando è? No, niente, sto, ti ripeto, sono andato la stasera dal barbiere. E tu mi aveva fatto in sede e parlo un po' con Franco. Sto passando in sede, tutto a Lugio, lo cancello Sarrazzo, a Lugio, e tu nulla. Poi ci devo andare il giorno dopo, mi sono dimenticato. Allora, speriamo che mi mettiamo una sera dal tavolo. Sì, allora domani come fare camminare un garrello con il mirapulto. Ah, non hai buttato ancora pulto? Oh, c'ho alcune cose che voglio smontate, pulite bene e verniciate. Che sono arrugginiti, ah, comincio con il mio... Perché mi arrivi dalla spazzola. Me la giù buccia, io me la giù già pronto, va a trattarlo. Ah, ecco, già sei là. In linea di partenza, è lì dopo noi, in cammino o là? No, ce l'ho messo in garage. Cioè che ne devo parare un gommone, ne devo parare e lo devo pulire. sopra. Farà dire pure se lo sopra allora. Oh, domani io faccio tutto canto. Se che vedo va poi quando devo da smontare i mozzi per cambiarli. Già è un attimo quello. Dovresti farti una cosa che prima è necessaria, quella di tenere il gommone sopra, che ogni volta mi farà strada, non si mette le scatole. Fai il pezzo sopra, il gommone lo piatti veramente sopra, e così non stai a scaricare e a caricare. No, invece sono i rulli che devo verniciarlo, devo smontarli e verniciarli, tanto là tutto il resto già si può fare con il gommone sopra, metto il coso, stacco i muzzi, tutto quanto, poi già si può fare così. Allora ti dovevo farti i rulli domani, poi a quando sera è asciutto che il gommone lo rimette sopra, una volta che il carteggio vernice è venuto. Sì, quelli me li faccio tutto domani, me lo faccio, basta accendere e fare il gozo. Faccio così, me lo faccio tutto in una voce, subito. Smonto, pulisco e ripiazzo. Infatti, da fare così, smontate, non pulirle per iniziare, di piazzare. Quando asciuga si mette il gommone sopra, così non sai, sali, scendi e dicendo. L'amore non lo tocca neanche dove devo smontare, quindi solo che deve essere libero per farlo bene. Piano piano domani smonto e ripiazzo, smonto e ripiazzo. Il garage non sono lontano da casa. Sono vicino all'edificio. Insomma non è vicino, ma non è neanche lontano. Non è neanche lontano, già si può fare. Vai in macchina e sei tranquillo, perché ti frutti tutti gli attrezzi in macchina e sui residui vai. Bisogna farlo in quella maniera, bisogna fare, no? Mi tocca far ammenire i noghi e metterlo su da qua stesso. Però i noghi non li voglio ingassare, arrego il garrello giù di buco. Magari ti vado anche di questo. Infatti, no, durante il giorno puoi tenere. Di notte che ce lo devi buoninghi da fai frutta. Infatti, ma anche di giorno, se non mai, passa uno con un temperino che te le stampa. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Adesso vedo se portarmi tutto quanto qua e scendermelo qua, fare piano piano, o se scendermelo là, perché là viene male a scenderlo. Se non garage dentro non ci stai, è piccolo così. Già ci sta, tutto il carrello ci sta, però devi, ogni volta devi togliere il gommone, le cose, e viene male a metterlo. Invece lo lascio attaccata alla macchina, nero varo, e forse un brimma. Allora sì, se non si può disgiostrare, se viene portato giù. Ma se lo voglio male, non da me. Capito. Vediamo se Antonello ha finito di bisticciare col cane. Ancora bisticciando col cane, sta. Lui manco di rispondere, la cena ha finito. No, non c'è nessuno qua, non c'è nessuno. Signor Marino! Se altro buio deve essere occupato o è con un ibuti? A fare una particella con un ibuti pura. Sicuramente sì, mamma è già quasi buccio. Appunto poi se vanno a bollone con la scende. Fatto è così. Ma, no? Anna Benemera, raga. Anna Benemera. E allora cosa mi racconti, signor Bacchi? Che domani smonto questo cavolo di amplificatore. Deve essere partito, non per dirlo. Deve essere partito. Qualche dio deve essere partito. L'ho cambiato la sua volta. E penso sia partito, perché invece di aumentare diminuisce la potenza. Allora devi mettere un dio da buono. Ah, penso da pulsare, bravo. Non so, di cucaria va. Buonasera. Se chi è, avanti. Chi è? Ma buonasera, chi può essere quest'ora? Chiattami, fa vedere del coperchio da c'è la pentola. Chiatta che andiamo via, andiamo. Buonasera, signor Marino. Buonasera anche a lei, buonasera anche a signor Marchisio. Allora, signor Marchisio, guarda, in questo momento mi sono arrivato 4 e mezzo, quattro e mezzo, radio un po' bassa. Avanti. Guarda, adesso aumentato. Adesso siamo in tasso, 9.15. E allora c'è il transistore fa partito. C'è il transistore fa partito. Perché sta scaldando le cose male. Anda per la vera. Ah, sono a chiedere, Maria. Quella fianca di salata, c'è Antonino, quella data a me. Se la vuoi, me ne da un'altra. Ma sempre di quella? Sì, ha sempre di quella famiglia. Se la vuoi, me la dà. Sì, se ce l'essi, io sono l'ho messo all'ombra, sono una fiata, stamattina nel fresco, una fiata, domani, fate una fiata più spesso, là. Anzi, se ce l'ho messo, una fiata due volte io una fiata. Oh, ma chi però si sento, o la radio mia o è la tua, un po' nasina, se non mi sbaglio, Si la conferma Tore, non lo so, ma dove sono io, avanti, ma chi? Forse sono io, e sono mezzo rauco, capito? Forse sono io, quello lì. Ma cosa stamattina stavamo parlando, l'ho trovata, stavamo parlando con il ma hanno detto, se la vuoi un'altra te la do io. Ha detto, vabbè, adesso chiedo a quella amica, se serve la prendo. Sì, fratello, ma sì, fratello, intanto si sa se quella lì va avanti, capito? Tu già... Sì, vabbè, poi quando cresce la banana già la diamo a Tore, vero tu? E poi te la mangi il burro. Quando sei malizioso, è che male, non ti piace la banana, sì? No, la buccia magna, che è troppo dolce. Ah, non è perché è pesante, no, perché è troppo dolce, sì. Ogni tanto fa bene la banana, dai, avanti, ma chi? Sì, fa bene, l'ho fatto per banana. No, il Zancolino ci sono, il caschetto delle banane ci sono, ma sono lunghe 10 cm. Non so dove ho visto il cazzo di banane, dove andava l'amico nostro al circo San Cristoforo, nel giardino, c'era questo albero enorme pieno di cazzo di banane. Sì, ma non si piani però. Ma vabbè, è un piccolo, non è roba, non lo so, avanti. Bananine sono. Dove sono, ma chi? Bananine. Esatto. Questo roba bene, basta. Mi avrà un 6 o 7 di quel casco ancora. Perché ha fatto il casco. Adesso quello che aveva fatto un po' tutto più secca. Vabbè, ma è bella come estetica, come giardino è bella, ecco. A me piace come giardino, come cosa della banana, ecco, tutto qua, avanti. Tore, a mangiare banane da Marino. Andiamo via, andiamo. A Giorgio non ti piace? E non si può. Ui, che andiamo bene, andiamo qua. Già fa bene la banana, che ho bisogno di cose di banana da... Cos'è? Ferro, banana, bacchia, non mi sbaglio, cosa fa? Ferro? Guarda un po', da chi è? Porta ferro pure, cos'è? Chi c'ha la mano in pancia? Cosa fa sta banana? Ah, boh, non lo faccio. C'era uno che conosceva questo medico per cosa, comprava il banale, le faceva bene il banale, e se non le sai prenderla, mangiava una mattina e una sera, poi non lo so, non ricordo per quale motivo mangiava queste banane, no, sinceramente, avanti tu. Sì, già l'ha fatto messo in fuzza. Già che era fatto messo in fuzza. Non lo so, avanti da chi? Oppure mi piacevano le banane, ci sono gente che mi piace le banane, perché le banane ci sono i vanificchi. Sì, più di una c'è persona che piace la banana, tu non hai detto, più di una non è pieno. E salsiccione. No, là, sono visto anche salsiccione, esatto, non so neanche a lei, avanti. Ciao, Mario, mi hai sentito? No, ce l'ho anche poco fa, solo che poi mi sono... Ah, si è messo a mangiare il cane, stavo contando la vecchiera. Ma c'è niente, la pizza c'è niente. No, pizza non so, no. E se ti stai masticando, anche tu mangi la banana, va bene, dai. Avanti, tu. Tu sei soltanto, avanti, ma chi? Tore, sei andato a mangiarsi la banana, hai capito, no? Se ti prendi la banana, sei andato a mangiare la banana. No, non è così. così come ti sei difendi tu. E la bella è a vedere la capuntura della Torres. Ah, non pensavamo che è il causa della banana, non lo so io. E magnadira, che fa sempre a te. E la magnosi, a chi mi piace la banana, non lo sai. Hai compreso parte di anche il sastro muro. Ehi, oh io ya. Oh, lettore, avanti Antonello, che dici oggi? Allora, lì a casa, tutta la vita. No, sono uscito ieri sera, ci abbiamo voluto fare. Oh, iaia, sono domani devo uscire a fare i documenti. Dopodiché, venite a casa, sono a fare la spesa. Quello che mi dà fastidio è entrare dallo speaker c'è qui. Una ghiacciaia, cazzo, ogni volta che tu entri, che fuori ci sono 30 gradi, e ti arriva dentro, esci con la maglietta tutta come congelata, cazzo. Sembra che mi abbiano fatto l'autolavaggio. L'hai consumata, ma poi facciamo di sopra, pure anche il frigo, una cosa dell'altra. Purtroppo così, ma già lo staccano fra poco. Fra poco quando entri è al contrario, è fuori freddo, dentro caldo, avanti, ma che? Ma se scende la riga, non te lo è. Fai 50 metri e scende la riga. Sì, cos'è l'antolodimo? Ogni volta che entro lì, che vai dalla parte dove sono di frigo per prendere cosa ti posso dire, i formaggi, mozzarella e cose del genere. Non ce n'è più nessuno, passi proprio lì, una ghiacciaia. Poi, io non so come fanno loro a lavorare in quelle condizioni. Io sei stato male, sei stato in felpa, non in maglietta corta. Sono abituati, Antonio, sono abituati. Certo, li vengono tutto dentro, non possono uscire. Perché se sono fuori, si bisticheggia subito. Ma a me che non sono sul camion, la ricordata al massimo, sai scendi e c'è una differenza pazzesca, figurati. Esatto, sì. E purtroppo è così, sai quante volte mi ha fregato a me? Perché sono 30 gradi, ma anche perché io ho l'abitudine di farmi la passeggiata a piedi, a posto di essere, no, sono leggermente solato, momento vento, boh, fu tutto. Purtroppo è così, Antonio, purtroppo non c'è niente da fare. Io sul camion non c'è la ricorda, mi ha preferito, me la fa tenuta. Se l'autista c'è a caldo, si può non guardare molto, avanti da chi? Sto fa male così, Bacchi, fa male, io me la colgo con il suo servizio sul camion, me la colgo subito. Un giorno mi trovo a casa mio, fa raffreddore, ma in testa era appunto un addo. Sono fatto la voce, ho messo quel caso, non ho avuto niente di mangiare, ma la prossima volta ho detto non accendo, poi se accendi lascio i finestrini aperti, che a me non mi ha fatto niente proprio, avanti il tocco. Ora sta sbucciando banane, avanti Antonio. No, sono bucce di banane, lo sanno tutto io. Certo, tu già bisogna con i banani proprio, sta attento a quell'albero, che non si ribelli. Magari. Tu sei per vedere la visione, scommetto, così è. Pronto? Avanti Antonio. E allora, permetto, poi attaccata con l'antenna ci ha messo una pianta di pino, così non si vede nulla. E tu è furbo, tu l'ha fatto scuola alto, non trovo la così a sole, no? Sole sì, che ne sa di cosa, avanti, va chi? Intorno ce ne frega, sta roba, non si hanno banane, adesso è via, e sto preparando per cena. Va benissimo, a proposito di cena, è arrivata l'ora. Di cenare, di prendere fastidio e poi di cenare. Bene, signori, Battista vi saluta, vi auguro ancora buon QSO, sia Marino, Antonello e Salvatore. Battista, interessante, ascolta il finalino e poi passa in QR. Riprende Marino, ce la vediamo, ce la sentiamo, ciao. E anch'io vi saluto, così mi organizzo per domani, sono andato a lasciare, sono lavorato per una settimana. Beh, ciao Bacchi, ben sentito, se in caso ci vediamo domani, ok, se no ci sentiamo domani sera. Ciao Tore, ciao anche Antonello, e Antonello riprendi e per me come metti, dai avanti. Ciao a tutti e due, buon cuore, buona cena, buon tutto, alle prossime. ok, dai, ciao Battisio, ciao Marino. Anche io, Antonello, sto chiudendo. Mi so ciamelli. Andate, ci sentiamo alle prossime, magari domani in muro. Ok, ciao a tutti. Ok, ciao, Ottore, domani sono tu in casa. Ciao, ciao Antonello, ciao anche Battisio nuovamente. E sono tu in tutti gli ascoltori e cuore di per te. Ciao. Ciao a tutti e tre, ci sentiamo. Buon cuore tipo tutto. E alle prossime. Buona cena. E buona dormita.